1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo alle 7:20 minuti, siamo in diretta qui a 24 mattino, siamo pronti a leggere i giornali e oggi raccontarvi che cosa? Dei partiti che abbiamo letto ieri, visto che sono al salasso di conti, pensano di ripristinare in qualche modo il finanziamento pubblico. Ne parleremo alle 8:15, come parleremo di alcune, come dire, pieghe della legge di stabilità che verrà approvata oggi definitivamente e ci torneremo domani, e avremo il sindaco di Molfetta per capire come mai siano arrivati 10 milioni di euro per il porto di Molfetta, per il quale tra l'altro è indagato un senatore, il senatore Azzolini, che è ex sindaco di Molfetta. Cosa c'è sotto lo scopriremo più avanti, ora andiamo a sfogliare i quotidiani. In questo martedì 23 dicembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: i bot vanno sotto zero, tassi negativi a 3 mesi, mentre per il Corriere della Sera, e qui siamo alla politica, altri addii, caos 5 Stelle. Per Libero anche Grillo, il miglior alleato di Renzi. Repubblica invece, Napolitano ai giudici, basta protagonismo, Movimento 5 Stelle lasciano altri 3. Per il Fatto Quotidiano, i pericoli secondo Re Giorgio, i corrotti ma anche i magistrati. Il Messaggero, articolo 18, così cambia l'indennizzo, domani c'è il Consiglio dei Ministri sui decreti attuativi. La Stampa invece si concentra sulla frustata del Papa alla Curia, così il giornale, il Papa asfalta i cardinali. Attacco senza precedenti, si sentono padroni ma sono affetti dal cancro delle divisioni. E anche Avvenire, in maniera più sfumata, apre sul Papa: esame di coscienza per tutta la Chiesa, il Papa elenca 15 mali. Vabbè, queste alcune delle aperture. Invece il Manifesto sull'inchiesta Ordine Vecchio, è il, in realtà, Ordine Nuovo che veniva ricostituito, cioè 14 arrestati, 31 indagati per questo progetto di eversione nera degli anni 70 che si voleva far rinascere. Però io voglio partire dall'estero perché, abbiamo sentito un giornale radio, per carità, al bando dalle psicosi, che adesso non arrivi, come ho twittato poco fa, la psicosi del furgoncino jihadista, questo no. Però, certo, in Francia si interrogano molto. Ieri raccontavamo di Digione, dove un furgone è stato scagliato contro la folla al grido di Allahu Akbar. Ieri è successa una cosa simile, anche se gli inquirenti dicono in questo caso no, si tratta di un folle. Comunque è successo che a Nantes un furgone si è buttato su una folla al mercatino di Natale, 17 feriti, dei quali uno in pericolo di vita, 4 gravi. Una drammatica immagine scattata da un passante riprende l'attentatore con le braccia aperte e lo sguardo rivolto al cielo. L'uomo poi si è pugnalato per 9 volte al petto mentre ancora era dentro il furgoncino bianco col quale pochi istanti prima si era lanciato sui passanti. Stefano Montefiori racconta la cronaca da Parigi. Francia, furgone sulla folla, attacco al mercato di Natale. Secondo alcuni testimoni, il conducente gridava anche in questo caso Allah Akbar, Allah è grande. Dopo che domenica sera a Digione un uomo di 40 anni ha volutamente investito con la sua auto 13 persone, urlando anche qui Allah Akbar. Per la verità, gli inquirenti dicono che riguardo al gesto di ieri non ci sono prove che ci sia stato questo urlo da parte di questa persona che si è scagliata contro la folla. Certo, si è scagliata contro la folla, poi si è pugnalato, benissimo, non sta e non stava dal punto di vista mentale questa persona. Sta di fatto che ora è psicosi. C'è stato un incidente analogo a Glasgow in Scozia, dove però lì sembra davvero che un camion per la raccolta dei rifiuti che si è lanciato in una folle corsa nel centro città investendo numerosi pedoni, uccidendone 6, in questo caso sia stato un furgone che è sfuggito al controllo del conducente che ha avuto un malore. Dovrebbe essersi trattato di un incidente lì. Comunque anche Repubblica si concentra a pagina 16 e 17 sul furgone in corsa sulla folla, il terrore a Nantes, gli inquirenti che dicono è un atto isolato, chiaramente però la psicosi è partita immediatamente. A proposito di notizie dall'estero che però riguardano direttamente noi, vale a dire la vicenda dei Marò, pare che si sia un punto di svolto, ovviamente va detto con quell'estrema cautela e quelle 850.000 virgolette, perché la vicenda è talmente ridicola ormai da tre anni o poco meno che parlare di punto di svolta se ne può parlare solo quando ci sarà veramente. Il dato di fatto è che racconta un giornale indiano che l'Italia sarebbe pronta, e questo lo mette Il Giorno per esempio in prima pagina, ad alzare bandiera bianca. Questo è il titolo della prima pagina con la foto dei due Marò, perché l'Italia sarebbe pronta a fare scuse formali da parte dell'ambasciatore italiano per l'uccisione dei pescatori indiani, un importante risarcimento per le loro famiglie. Queste sarebbero alcuni elementi di una presunta proposta italiana che sarebbe stata avanzata secondo il quotidiano The Economic Times, assicurando di aver consultato fonti governative indiane del massimo livello. Questa sarebbe la proposta italiana, cioè scuse all'India dicendo è stata colpa dei Marò, risarcimento, insomma l'Italia pronta a chinare il capo. Oggi Renzi andrà a illustrare il piano italiano a Napolitano. C'è anche un'intervista sul Giorno a un ex Parà che poi è diventato parlamentare, vale a dire Gianfranco Paglia, colonnello dei paracadutisti che è medaglia d'oro al valore militare, è rimasto ferito e in carrozzina da quel giorno nella battaglia di Mogadiscio durante la missione italiana in Somalia, che al Giorno dice è una soluzione che avvilisce. Questi due militari hanno servito la patria, non possono essere trattati così, cioè con un chinare il capo, alzare bandiera bianca. Sta di fatto che pare questa la soluzione prospettata per cercare di portarli a casa tutti e due definitivamente. Staremo ovviamente a vedere, perché la vicenda è infinita. Vicenda infinita anche quella di, anche se di altro tenore, di Emilio Fede. Emilio Fede racconta al Messaggero, sapete che è stato licenziato in tronco, si oppone al licenziamento, lo scrive il Messaggero a pagina 7, Emilio Fede. Contro il licenziamento del TG4, licenziamento in tronco, i suoi avvocati dicono che non ha potuto entrare in ufficio per recuperare neanche gli effetti personali scatolati e depositati in un garage presso la sua abitazione. Non gli è stato concesso accomiatarsi da colleghi e collaboratori. È stata immediatamente bloccata la sua posta elettronica e gli è stato intimato verbalmente tramite la segretaria di non avvicinarsi o varcare i confini dell'azienda. Gli avvocati hanno fatto ricorso, chiedono il reintegro e hanno quantificato un risarcimento danni in 8.441.000 euro. Questo Emilio Fede chiede a Mediaset, lo scrive Claudia Guasco sul Messaggero a pagina 7. 8.441.000 euro di risarcimento per Emilio Fede. Vabbè, è un po' minore la multa, ma una stangata anche questa da 500.000 euro che l'antitrust ha comminato a TripAdvisor, il sito di recensioni forse più celebre e consultato. Perché? Perché secondo l'antitrust, su un ricorso di albergatori e consumatori, una categoria di associazioni di consumatori e di albergatori, c'erano troppe recensioni sballate, false. Ed eccola qui, la stangata da 500.000 euro. TripAdvisor finisce con un pacco di regalo di Natale salatissimo, direttamente dall'antitrust, che ha vietato al sito di recensione alberghiere la diffusione di informazioni ingannevoli. Secondo l'autority guidata da Pitruzzella, a partire dal settembre 2011 TripAdvisor e TripAdvisor Italy, TripAdvisor LLC, quindi la società americana, e Italy avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta, enfatizzando il carattere autentico e genuino delle recensioni e inducendo i consumatori a ritenere che le informazioni siano sempre attendibili, espressioni di reali esperienze turistiche. Insomma, alcune false recensioni indone a indurre in errore una vasta platea di consumatori ha spinto l'antitrust a questa multa. La società replica, faremo ricorso. Certo, però, una pacco di Natale, mica male, 500.000 euro di multa per TripAdvisor. Ma eccoci qua all'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, quello che ci fa tenere le mani sul volante se siete al volante, appoggiare le tazzine bollenti di tè e caffè se state facendo colazione. Lo scrive Mario Giordano oggi in prima pagina di Libero. Eccolo qui, i predoni del gettone di presenza. Succede al comune di Agrigento, dove il 2014, scrive Giordano, se lo ricorderanno come uno degli anni più impegnativi della loro storia. I consiglieri eletti hanno svolto un'attività febbrile, continua, incessante, avanti e indietro, indietro avanti, riunioni, riunioni, su e giù per le scale, dentro e fuori le stanze municipali, senza fermarsi mai, estate, inverno, domeniche, feste comandate. Risulta infatti al 15 dicembre che le 6 commissioni permanenti si siano riunite in un anno 1133 volte. Dunque si sono svolte in media 3 riunioni al giorno, ogni giorno dell'anno, Ferragosto, Natale compreso, roba da premio Stakhanov del consigliere comunale. Sarà mica perché a ogni seduta della commissione c'è il gettone di presenza? Eccolo qui, infatti, gli Stakhanov del gettone al comune di Agrigento, 1133 riunioni nel 2014. Una media di riunioni 10 volte più alta di quelle del comune di Trento. E infatti uno, se spulcia le classifiche del Sole 24 Ore, come scrive Mario Giordano, dove vede Agrigento nella classifica della vivibilità, insomma, delle classifiche annuali del Sole 24 Ore? Ultima, o meglio, posizione 107. Tutte queste riunioni evidentemente non sono servite a tantissimo. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, la Nutella mattutina dell'informazione! E allora, eccoci qui, già in diretta alle 7.33 minuti, continuiamo a leggere i giornali. È il giorno di approvazione della legge di stabilità, oggi definitivamente alla Camera. La manovra al traguardo con coda sulle mance. Questo titola Mario Sensini sul Corriere della Sera. Mance che tra l'altro il senatore Azzollini, che è stato il relatore della legge di stabilità al Senato, accusa, dice, era il governo a volere le micro elargizioni. L'accusa, sapete, di Renzi è stata: abbiamo lavorato di notte per togliere le marchette, e Azzollini dice era il governo a volere le micro elargizioni, e dire che lui è del nuovo centrodestra, quindi è anche del governo pure lui, ma insomma si vuole difendere così dalle accuse di non aver vigilato su queste micro elargizioni. Tra l'altro Azzollini è l'ex sindaco di Molfetta e, come racconta il Corriere, appunto, è finito anche lui nel mirino per un finanziamento al porto di Molfetta, dove è nato, di cui è stato sindaco, e per quella vicenda del porto di Molfetta tra l'altro lui è anche indagato, e ne parleremo con l'attuale sindaco di Molfetta alle 8.40. ma ieri c'è stata gran bagarre alla Camera con 6-7, non so quante, espulsioni da parte di altrettanti del Movimento 5 Stelle, che hanno occupato a un certo punto gli scranni del governo. E che cosa è successo? Protestavano soprattutto per la grande sanatoria per favorire giochi e fisco, che viene spiegata da Sergio Rizzo a pagina 6 del Corriere della Sera. Incalzato dai grillini al Senato, Renzi tuonò: adesso basta con le marchette in Parlamento. Sentendosi rinfacciare sulla stampa da uno del suo partito, il presidente della commissione bilancio Boccia, veramente il primo a fare le marchette è stato il governo, alcuni dei quali con nome e cognome degli emendamenti, eccoli qua, presentati 90 emendamenti da parte del governo, dice Boccia, alcuni dei quali con nome e cognome. Per esempio un emendamento sui giochi, messo a punto dagli uffici delle finanze, che ha un destinatario preciso, è la SISAL, concessionaria presieduta dall'ex ministro delle finanze ed ex commissario dell'Alitalia Fantozzi, controllata dalla holding lussemburghese Gaming Invest. L'obiettivo è rianimare il Super Enalotto, ormai da tempo in caduta verticale. La ragione è che si evince troppo poco in rapporto con altri. Si vince troppo poco in rapporto con altri giochi d'azzardo e quindi si gioca poco al Super Enalotto. Per mettere una pezza non resta che consentire di aumentare la percentuale di vincita con, testuale nell'emendamento, l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco. Dunque interventi che potrebbero avere ripercussioni sul gettito erariale, in un senso positivo, ma come pure nel senso opposto. Che fare allora? Scrive Rizzo, siccome nessuno ha la palla di vetro, ecco che nell'emendamento salta fuori una innovazione formidabile, tenuto conto dell'inflessibilità con cui i guardiani dei nostri conti dispensano il loro prezioso bollino. Eccola qui, la innovazione formidabile. Il problema della copertura non solo non viene preso in considerazione in questo caso, ma si precisa che considerati obiettivi e ineliminabili margini di aleatorietà delle scelte che saranno fatte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Cioè, scrive Sergio Rizzo, un vero e proprio capolavoro. Tra l'altro in quell'emendamento c'è anche una specie di sanatoria per le migliaia di negozi di scommesse privi di concessione statale, ai quali verrebbe offerta una opportunità di redenzione nella direzione del circuito ufficiale e legale di raccolta scommesse. Come? Pagando una certa somma entro la fine di gennaio 2015 come tassa d'ingresso nel sistema alla luce del sole. Insomma, si paga una tassa, si fa una sorta di sanatoria per favorire la legalizzazione di 7.000 sale che erano fuori dal circuito del gioco d'azzardo legalizzato. Hanno protestato quelli del 5 Stelle, hanno protestato molto, sono stati espulsi, sono stati rimossi. Per la verità i 5 Stelle finiscono sui giornali nel giorno in cui fanno questa protesta, anche perché tre di loro se ne vanno. Altri tre di loro sono i tre di Latina, 5 Stelle senza pace, come titolano alcuni giornali. In tre si dimettono. Ah, gli espulsi della legge di stabilità sono stati 15, tra l'altro. 15 espulsi alla Camera, lavoro, cartellini rosso per tutti. Mentre tre del Movimento 5 Stelle sbattono la porta, altri tre accusando non c'è democrazia, sono la senatrice Ivana Simeoni, sono il deputato Cristian Iannuzzi e sono il senatore Giuseppe Vacciano. Tra l'altro uno di questi sono madre e figlia, cioè Ivana Simeoni è la madre di Cristian Iannuzzi. Sono andati via in tre, tutti e tre di Latina, dicendo no, non c'è democrazia, è stato eletto il nuovo direttorio contravvenendo alla regola uno vale uno, e vabbè, ma racconta Repubblica che c'è un altro deputato, il deputato Aris Prodani, che fa un'intervista a Pagina 7 e che dice hanno vietato dei miei emendamenti. Eravamo in commissione bilancio e avevo portato degli emendamenti importanti per la mia città, Trieste. Li ho trasmessi ai colleghi, ma la capogruppo Laura Castelli mi ha detto che uno di questi emendamenti era contrario alla nostra linea politica, che io non ho capito, neanche loro la conoscono. Insomma, grande delusione, e anche questo onorevole Aris Prodani conclude l'intervista dicendo che fare ora non lo so, mi prendo qualche giorno di tempo. Non erano emendamenti bandiera, non erano questioni interne, questa è una nuova problematica perché mi è stata tolta la possibilità di portare avanti il mio lavoro, e se non posso fare quello per cui sono eletto, che ci sto a fare? Ecco, quindi l'onorevole Prodani è il prossimo a lasciare il Movimento 5 Stelle, staremo a vedere. La legge di stabilità però non ha toccato una cosa importante. Questo lo sottolinea un po' tutti i giornali. Il Sole 24 Ore la mette così. Laura Serafini lo fa con un'indagine Istat. Le società partecipate, cioè quelle controllate dagli enti locali, sono 7.726. In totale le partecipate sono 11.000, per la verità, 7.726 quelle degli enti locali. Ma di queste 11.024, per essere precisi, società partecipate, 11.024, pensate, 1.500 di queste non sono neanche attive. Così, sul Sole 24 Ore. Ma che ci stanno a fare? Eppure, guardate il foglio, prima pagina. Comuni S.P.A., nemmeno Renzi cambia verso al carrozzone municipale. Per ora, scrive Marco Loprete, per ora. In origine ci fu un tweet, ovviamente con l'hashtag municipalizzate, sfoltire, semplificare, da 8.000 a 1.000. Parola di Matteo Renzi, presidente del Consiglio, aprile 2014, a poche settimane dall'insediamento. Poi in agosto il programma di razionalizzazione delle partecipate locali di Carlo Cottarelli, allora commissario governativo della spesa pubblica, che diceva sono 7.726 le società che hanno come azionista le amministrazioni locali. Niente. Lasciato così, piano messo via. Quindi al rientro delle ferie estive la rassicurazione del potente sottosegretario Delrio. Il governo affronterà la questione in modo organico nella legge di stabilità. Adesso però nel testo definitivo della legge di stabilità c'è e le municipalizzate sembrano continuare a godere di ottima salute. Che si tratti del prosciuttificio della società del trasporto pubblico locale, questo processo di razionalizzazione di questo processo in finanziaria. Si parla, ma in maniera poco radicale o rottamatrice, a giudicare dai commi 610 e seguenti del maxi emendamento governativo. Insomma, sono ancora lì, tanto che Il Giorno titola l'ultimo schiaffo a mani di forbice del piano Cottarelli, non resta nulla. Dall'idillio mai nato con il commissario alla mini spending review non si trova un termine migliore per denominare giungla il mondo delle partecipate locali. È necessario un intervento drastico, disse Cottarelli. Cottarelli è tornato a Washington, chi si è visto si è visto, e le partecipate sono ancora lì. Ma il presidente del Consiglio, andando da Fabio Fazio, ha lanciato questo sito, che ieri è stato il sito più cercato su Google e forse anche più cliccato del giorno. Il sito è quello soldipubblici.gov.it. È il sito dove Renzi dice abbiamo raccolto tutte le spese degli enti locali. Uno può andare a vedere. Io ieri l'ho visto, sono nato a Sesto San Giovanni, sono andato al comune di Sesto San Giovanni, ho visto quanto hanno speso in cancelleria, eccetera. Mi sono fatto un po' un giro anch'io così per curiosità. In realtà oggi su Libero e Il Fatto Quotidiano ci sono due articoli molto duri nei confronti di questo sito. Per Tommaso Rodano sul Fatto, i siti internet patacca lanciati dal governo, l'ultimo c'era già, è proprio questo, soldipubblici.gov.it funziona, che si apre con tre grandi numeri, cioè il totale del denaro speso da tutte le amministrazioni locali del 2014, le cifre separate di comuni e regioni, un archivio a cui si arriva attraverso tre direttive, chi, quanto e cosa, cioè chi spende, comuni, province e regioni, quanto spende con il confronto tra l'anno corrente e il precedente e per quali beni o servizi. Ebbene, però Il Fatto Quotidiano dice ma è un doppione, a poche ore dal lancio in rete sono comparse le polemiche, non è niente di nuovo, si appoggia a numeri che già avevamo, è un servizio inutile di cui non si conosce nemmeno il costo. In effetti, scrive Il Fatto, il sito utilizza le cifre elaborate da Banca d'Italia e dalla Ragioneria dello Stato rese pubbliche sul sito siope.it. È un progetto nato nel 2006 e siope.it offre, scrive Il Fatto, un servizio anche più approfondito. Quindi, insomma, un sito copione di cui non si conoscono i costi e che non dice granché. Addirittura, secondo Franco Bechis su Libero, il sito del governo per la trasparenza confonde le acque. È un nuovo sito sulla trasparenza che le spara più grosse del Premier. Questo è il titolo a pagina 3. Basti vedere il sito del comune di Roma. Provate a cercare, scrive Bechis, la spesa per campi nomadi per immigrazione, accoglienza, manutenzione del verde pubblico, insomma tutte le vicende che sono finite nell'inchiesta Mafia Capitale. Scoprirete che nessuna di queste voci o voci affini è presente nell'elenco dei capitoli di spesa. E conclude polemicamente Bechis, magari è andato a finire nelle casse della cooperativa 29 giugno di Buzzi qualche rivolo della spesa in acquisto di derrate alimentari del comune di Roma, 3 milioni e 300 mila euro nei primi 11 mesi, o qualcosa delle spese per locazioni. 74 milioni e mezzo in 11 mesi o qualche milioncino dei trasferimenti correnti a famiglie, imprese pubbliche, private, istituzioni sociali o altri soggetti. Insomma, si cerca a casaccio, ma ad esempio la prima voce, quanto si spende per i nomadi a Roma, che è finita nell'inchiesta, non c'è, scrive Libero. E che razza di sito è? Su, piccolino mio, mangia la pasta. No, primi il traffico. Milan, cagnas, randaggio dell'informazione. Addirittura il cagnaccio randagio dell'informazione. Vabbè, siamo qui allora a continuare a leggere il giornale. A proposito della vicenda di Roma, c'è novità sul prefetto Pecoraro. Ieri l'accusa è questa: aver visto Buzzi, uno degli indagati. Oggi Pecoraro precisa: sì, è vero, ho visto Buzzi perché l'ho fatto come cortesia, non mi sentivo pressato da lui, l'ho ricevuto solo per rispetto alla persona che me lo aveva segnalato, ovvero Gianni Letta. Ma è anche vero che è mia consuetudine ricevere i presidenti di associazioni, Caritas, Sant'Egidio, il Centro Astalli, anche dei movimenti per la casa, insomma accolgo un po' tutti, sono il prefetto. Comunque c'è polemica per questa vicenda di Roma. Ma a proposito di Roma, o meglio del Vaticano, con il Papa, beh, ieri il Papa ha fatto un discorso molto molto forte, considerato storico. Addirittura il giornale mette il titolo di prima pagina così: il Papa asfalta i cardinali. Il Papa, in occasione del Natale, ha parlato delle 15 malattie della curia. Il Papa, insomma, scuote la Chiesa, come scrive Gian Guido Vecchi, vaticanista del Corriere della Sera. Ha parlato di che cosa? Della malattia del sentirsi immortali, immuni o indispensabili, che va guarita con una bella visita ai cimiteri, ha detto il Papa, che ci potrebbe aiutare. Alcuni forse pensavano di essere immortali. C'è una curia che non si autocritica, non si aggiorna, e questo è un corpo infermo. C'è il male che è il complesso degli eletti, la patologia del potere, il male di coloro che si trasformano in padroni e si sentono superiori a tutti e non al servizio. Antidoto è la grazia di sentirci peccatori. E poi altre malattie, l'eccessiva operosità che fa trascurare il sedersi ai piedi di Gesù, cioè il riposo, l'impietrimento mentale e spirituale di coloro che si nascondono sotto le carte diventando macchine di pratiche e non uomini di Dio. E poi in un crescendo, Francesco, arriva la rivalità e vanagloria, quando l'apparenza, i colori delle vesti, le insegne di onorificenza diventano l'obiettivo primario. I falsi, la schizofrenia esistenziale, quella gravissima di chi vive una doppia vita, frutto dell'ipocrisia tipica del mediocre e progressivo vuoto spirituale. Quelli che insegnano severamente agli altri hanno una vita nascosta e sovente dissoluta. E poi le malattie delle chiacchiere, il terrorismo dei pettegolezzi. E poi la malattia dell'accumulare. Bergoglio cita la nonna Rosa e dice: i nostri traslochi sono un segno di questa malattia. I traslochi. Tutti ovviamente guardano, come scrivono i giornali, a quello che è successo al cardinal Bertone, che ha traslocato nel superattico. I nostri traslochi, ha detto il Papa, sono un segno di questa malattia. Ancora una volta, scrive Repubblica con Paolo Rodari, le parole del Papa non hanno bisogno di particolare esegesi, sono chiare da sé. Si riferiscono a mali di cui è infetta la curia romana e per il quale egli ha sentito la necessità di chiedere perdono davanti ai dipendenti della Santa Sede. Le parole del Papa sono realistiche, mosse da un uomo di chiesa non curiale, venuto da un paese lontano, anche per questo capace di vedere ciò che non va in quel di Roma, e muovono direttamente dai tempi del conclave. Al centro delle congregazioni generali che lo precedettero fu messo nero su bianco il problema di una curia in parte malata, vittima di visioni piccine, schiave di logiche di potere. Certo, la vicenda di Bertone, non tutto per riferirsi al cardinal Bertone, ma è chiaro che secondo alcuni, anche per la stampa, cioè il cardinale Laiolo, che fa un'intervista a pagina 13, è mai successo nulla di simile. come un ammonimento e un discorso così, francamente non era mai successo. Così il cardinale Giovanni Laiolo, che è l'ex governatore ministro degli esteri Vaticano, cioè è la prima volta che accade, dice: mai un papa aveva posto a noi curiali un catalogo di patologie sulle quali interrogarci. Lo stesso cardinale dice: una sferzata inedita da parte del papa. Allora vedete che il titolo del giornale Il Papa asfalta i cardinali evidentemente va anche poco distante dalla realtà. Se volete comunque tutto il discorso del Papa lo trovate su Avvenire, pagina 5-6, viene pubblicato tutto. Trovate molto anche dell'inchiesta di questa associazione neofascista che è stata sgominata all'Aquila. È un'associazione che parlava nelle intercettazioni di attentati, di attentati veri e propri ad autorità, a Napolitano, ma anche all'ex presidente dell'Aquila Pezzopane, al governatore Chiodi, alla Chienghe, che quella negroide per la quale presto arriverà il piombo, non le banane. Degli spaccati che davvero riportano agli anni 70, tanto che la procura di L'Aquila dice volevano ricostituire ordine nuovo, cioè organizzazione fascista. Trovate molto di questa vicenda ovviamente sui giornali, questa banda sgominata, quanto fossero vicini a realizzare quello che dicevano nelle telefonate questo non si sa, però certo è bene che siano stati fermati. Vi è mancato il chiacchiericcio della politica? Perché c'è molto, sappiate solo, l'unica cosa interessante è che l'articolo, che i nomi più gettonati per il PD al Quirinale, scrive Maria Teresa Meli a pagina 12 del Corriere della Sera, sono al momento Pierluigi Castagnetti e Sergio Mattarella. Ma ho sintetizzato almeno una decina di chiacchiere che trovate sui giornali, Berlusconi chiede lealtà ai suoi, per esempio, un'intera pagina, e così via, insomma, pagine e pagine sui giornali per la corsa al Quirinale, una corsa che ci sarà, forse non si sa quando, ma intanto, per il momento, paginate di piombo sui giornali. Una rassicurazione per tutti, credo positiva, perché si era sparsa la notizia di una depenalizzazione di alcuni reati, tra cui quello di maltrattamenti nei confronti degli animali. Era una cosa gravissima, se fosse andata in porto, e se andasse in porto sarebbe gravissima. Ma il Ministero ha rassicurato, racconta il Corriere della Sera, gli animali e i maltrattamenti, il reato non sarà depenalizzato. È la rassicurazione del Ministero, non ci sarà l'impunità per i crimini contro gli animali, lo garantiscono al Ministero della Giustizia, gli animalisti esultano per una stortura raddrizzata all'interno di un decreto delega che è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri, un decreto delega complesso che riguardava la non punibilità per particolare tenuità del fatto per alcuni reati, rientrava anche il maltrattamento sugli animali, ma dice il Ministero non succederà. Allora sappiate che ci sono vari articoli sulle feste da buon gustai, e vabbè, sappiate che sulla stampa ci dicono che a Babbo Natale in quel di Rovaniemi, Lapponia, sono arrivate dal 1985 a oggi 16 milioni di lettere. Ma non è questo il premio La Carta Costa, il premio La Carta Costa per articolo più inutile. Scovato sui giornali va a Libero, in prima pagina Fabrizio Biasin, un articolo poi di un'intera pagina sull'isola dei Formosi, arriva con Nicole Minetti, Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, e Rocco Siffredi, inizi lo show! Ma chi se ne frega!